Cocco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Oggi vogliamo rendere omaggio e giustizia a un artista di cui non si parla abbastanza, un grandissimo musicista che ha scritto alcune delle canzoni più belle della storia della canzone italiana, canzoni diventate successi mondiali, cantate in tutte le lingue del mondo occidentale, ma anche un artista che ha pagato carissima la sua sincerità. Per sincerità intendo il fatto di avere raccontato in anni difficilissimi per l'evoluzione del costume di questo paese la sua omosessualità, diciamolo. Morto completamente povero, stiamo parlando del grande Umberto Bindi. Le sue canzoni, dal Nostro Concerto al Mio Mondo, da Arrivederci alla Musica Finita, tanto per citarne alcune, sono diventate dei veri e propri standard internazionali, cantate da milioni di persone. Eppure lui è caduto in una sorta di oblio, in parte derubato dei diritti d'autore, cosa che lo ha ridotto all'indigenza, e a vivere gli ultimi anni della sua vita in un modo inconcepibile, inaccettabile, una vera e propria tragedia umana. Oggi cercheremo di raccontare la sua storia nella speranza di riaccendere l'attenzione su questo nostro grande autore che non tutti ricordano, ma che è da considerare un patrimonio del nostro paese. Questo è l'intro del Nostro Concerto, forse la canzone più bella e più famosa di Bindi, che è una canzone assolutamente anomala, perché in anni in cui le canzoni duravano 2 minuti e mezzo, lui ha un'introduzione musicale di oltre 1 minuto che la fa veramente assomigliare a un concerto, che peraltro rivela subito la sua grande preparazione tecnica e compositiva e una sensibilità molto raffinata. È proprio da qua che vogliamo partire nel nostro racconto, dalla straordinaria preparazione musicale di Umberto Bindi, che nasce a Bogliasco nel Genovese 12 maggio del 32. I suoi amici sono Bruno Lauzi, del quale abbiamo parlato di recente, Gino Paoli, Fabrizio De André, Luigi Tenco. Lui fa parte della cosiddetta scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovano profondamente la musica leggera italiana, dando vita al cantautorato. La vita di Umberto Bindi non è rose e fiori. Da subito, quando ha solo 3 anni e sua sorella 5, il padre li abbandona, sono già nell'indigenza, e tanto che i bambini vengono affidati dalla madre, che non può mantenerli, a un istituto di suore, dove restano 4 lunghi anni, dai 3 ai 7 anni, molto importanti, ti segnano per tutta la vita. Rientrati in famiglia, lui riceve in regalo una fisarmonica ed è così portato per la musica che va a fare un'audizione al conservatorio di Genova, dove gli vengono offerte lezioni gratuite di pianoforte. Questa sua preparazione classica trasparirà sempre, traspare fin dalle sue prime composizioni, che sono assolutamente straordinarie, insieme all'amico concittadino Giorgio Calabrese, un grandissimo autore di testi. Scrive una canzone stupenda, siamo nel 59, una canzone che è il suo esordio e che viene portata a successo non da lui in prima battuta, perché lui la canterà più avanti, ma da un cantante cubano molto famoso all'epoca, Don Marino Barreto. La canzone si chiama Arrivederci. Arrivederci per una volta ancora, e bello fingere. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco. Lasciarci soltanto per poco. Arrivederci. Per capire da subito quanto fosse alta la classe di Umberto Bindi e la raffinatezza musicale. Arrivederci viene cantata e suonata anche dal grande trombettista Chet Baker. Si capisce subito, fin da questo suo primo successo, che lui è un artista diverso dagli altri in tutti i sensi. Intanto è un ragazzo taciturno, sensibile, le sue composizioni si distaccano da quella che è la realtà musicale di quegli anni, perché sono intime, classicheggianti. Lui scrive le musiche, non le parole. Da quello che scrive traspare già una profonda sofferenza destinata a influenzare tutta la sua vita, e quelli che scriveranno i testi per lui sapranno ben interpretare questo suo senso, diciamo, di struggimento leopardiano nella musica. Come dicevamo prima, i suoi amici sono Paoli, Tenco, Lauzi, e vicino di casa di Giampiero e Franco Reverberi, che saranno due grandissimi compositori e direttori d'orchestra. Insomma, lui ha una grande dimestichezza con il mondo musicale. Nonostante questo, in famiglia gli faranno la guerra, come aveva raccontato lui stesso. Allora, a Genova, l'artista era un buono a nulla, un fannullone, uno che non aveva voglia di lavorare. Noi eravamo un bel gruppo di amici, facevamo tutti musica, ma chi più chi meno avevamo le nostre difficoltà. Io avevo mia madre, Bice, che me ne diceva di tutti i colori. Ma poi col tempo mi ha capito e mi ha anche aiutato molto. Umberto Bindi fa della diversità la sua bandiera e la porta avanti con coraggio, non solo nella scrittura musicale, perché ha un'enfasi melodica assolutamente unica, personalissima, ma anche lui stesso è diverso dal gregge, è stravagante, un po' sopra le righe, indossa pellicce vistose, lunghe fino ai piedi, gioielli molto appariscenti, anelli che risultano molto evidenti quando canta e tiene in mano il microfono. Insomma, i suoi atteggiamenti richiamano una presunta omosessualità che per il momento non è dichiarata, ma non è neanche nascosta. Ricordiamoci che siamo agli inizi degli anni 60 e in un'Italia in cui non è ancora passata la legge per il divorzio, mancano ancora 10 anni e ci sarà un referendum anche molto combattuto. Stiamo parlando di un paese chiuso a qualsiasi argomento legato al sesso. Ricordiamo le calze delle Kessler che dovevano essere spesse affinché non si intuissero le gambe, l'ombelico della Carrà doveva ancora arrivare. Insomma, è un'Italia profondamente regolamentata dalla vicina Chiesa cattolica, quindi l'omosessualità è un tabù e uno come Bindi viene guardato quantomeno con un po' di sospetto. Lui in quel momento non se ne cura, va avanti per la sua strada, scrive sempre col suo amico Giorgio Calabrese e scrive quello che è il suo esordio come cantante, forse possiamo definirlo il suo capolavoro. Siamo nel 60, Bindi ha 28 anni, compone una canzone che diventerà uno standard internazionale, viene cantata e suonata in tutto il mondo, ne abbiamo parlato prima, Il nostro concerto. Concerto di Umberto Bindi è un successo straordinario. Intanto in Italia raggiunge la prima posizione in classifica per 10 settimane e rimane al primo posto. Lui è un anticipatore di gusti e di comportamenti, è diverso da tutti sotto molti punti di vista, però intanto il grande pubblico lo adora, inizialmente solo quello italiano, poi la sua canzone varca i confini del nostro paese e diventa, lo dicevamo prima, uno standard, cioè una di quelle canzoni che sia per la loro struttura sia per il successo internazionale che hanno diventano dei veri e propri classici. Umberto Bindi è un grande compositore, questo è un fatto che gli viene riconosciuto subito, nessuno lo mette in dubbio, però a questo suo grande valore artistico fa da contraltare una vita privata disordinata. Arrivano i primi guai con la giustizia, macchina guidata senza assicurazione, denuncia per frode fiscale e poi una condanna a Milano per atti osceni avvenuti in una automobile troppo vicina a sguardi indiscreti. E lui prosegue nella sua carriera di compositore nel nel 61 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Non mi dire chi sei insieme a Miranda Martino, canzone sempre scritta con le liriche dell'amico Giorgio Calabresi. Non mi dire chi sei, il nome che hai per me non importa, adesso che sei qui desidero che tu rimanga accanto a me oltre la vita. Non mi dire chi sei. E quello è un Sanremo importante, c'è Adriano Celentano con Little Tony, 24.000 baci, Mina che canta Le mille bolle blu, vincerà Luciano Tajoli con al di là del bene più profondo ci sei tu insieme a Betty Curtis, e c'è Milva, c'è Tony Renis, insomma tanti personaggi di vario tipo, però i giornali sembrano tutti catalizzati da un oggetto, si soffermano a descrivere l'anello che indossa Umberto Bindi, stravagante e ingombrante, non solo per le dimensioni ma anche per il suo significato, perché Bindi lo ostenta quasi fosse un simbolo della sua ribellione, e proprio sul palco di quel Sanremo 61 cominciano a circolare insistenti le voci sulla sua presunta omosessualità e lui non fa niente per smentirle. L'omosessualità di Bindi, per di più dichiarata, è una macchia per la morale dell'epoca e naturalmente per il mondo della musica andava cancellata. Evita l'ostracismo in televisione soprattutto, e praticamente iniziò i rapporti difficili con la casa discografica perché non aveva la possibilità di programmare sull'artista, insomma praticamente fare una giusta promozione. E allora andai dal direttore e disse: ma perché? E questo mi rispose: ma sai, lei è molto chiacchierato. Lei è molto chiacchierato. Tenete conto che oggi, nel 2015, io credo che i cantanti maschi omosessuali siano almeno il 25%, e ce n'è uno o due che si sono svelati. Quindi immaginate quando invece nel 61-62 Umberto Bindi non fa nulla per nascondere la sua omosessualità. Inizia una lenta ma inesorabile discriminazione che gli rende la vita impossibile, blocca la sua carriera, e lui continua a scrivere canzoni, fa quello che sa fare benissimo. Siamo nel 63, ecco lì c'è un colpo d'ala grandioso, perché compone col suo amico e collega genovese il grande Gino Paoli una canzone destinata a un successo stellare, una grandissima canzone d'amore romantica i cui versi appassionati recitano: il mio mondo è cominciato in te, il mio mondo finirà con te. In molti iniziano a domandarsi se lui questi versi li rivolga a una donna oppure a un uomo, perché la gente è fatta così. Tu m'hai dato quello che il mondo non mi ha dato mai. Il mio mondo è cominciato in te, il mio mondo finirà con te. E se tu incisa da decine e decine di artisti, tradotta in inglese, cantata da Dionne Warwick. Per ironia della sorte, però, questa canzone, tanto chiacchierata perché sembrerebbe celebrare un amore omosessuale, viene portata a successo nel 71 da uno dei cantanti più gettonati dalle donne, un vero macho, gallese, ex minatore, il Latin lover per eccellenza, Tom Jones, che naturalmente la canta in una maniera più virulenta, ben differente dalla tenerezza con cui la canta Umberto Bindi. I feel a power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every prayer I pray. If I love ceases to be, quando le canzoni sono grandi canzoni e possono essere cantate in molti modi diversi da tante persone. Intanto siamo nel 67 e lui mette a segno un altro colpo clamoroso, perché scrive una canzone con Franco Califano. Questa canzone va a Sanremo, viene interpretata magistralmente da una grande Ornella Vannone, arriva quarta. Siamo al Sanremo che rimarrà purtroppo segnato per sempre dalla tragica morte di Luigi Tenco, l'amico d'infanzia di Bindi. Anche in questo caso quindi il nostro protagonista si trova a dividere il suo animo, perché da un lato la morte di Tenco ovviamente lo sconvolge, lui è un uomo sensibilissimo, però intanto ottiene un successo veramente grandioso che andrebbe vissuto senza ombre. Poi è strano il titolo della sua canzone, ahimè sembra quasi un presagio della precoce scomparsa di Tenco, perché la bellissima canzone si chiama La musica è finita. La musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito a niente, niente, nemmeno una parola, accenno ad un saluto, ti dico arrivederci, amore mio, nascondendo la malinconia sotto l'ombra di un sorriso. Il falco dei Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di uno dei più grandi cantautori italiani, spesso relegato a un ruolo di comprimario per motivi certo non musicali, perché le canzoni sono lì a testimoniare quanto valga il nostro protagonista, che è Umberto Bindi. Intanto abbiamo già parlato e ascoltato Arrivederci, Il nostro concerto, Il mio mondo, La musica finita, che tra l'altro viene cantata nella versione inglese Our Song da un giovanissimo Robert Plant prima di entrare a far parte dei Led Zeppelin, insomma, per capire quanto sia grande il successo anche internazionale di Umberto Bindi. Tutte queste canzoni farebbero pensare a una carriera straordinaria e invece non è così, perché lui paga carissima la sua sincerità, il fatto di non aver voluto nascondere la sua omosessualità. Questo in Italia non gli viene perdonato, la Rai non accetta un personaggio come lui e fa quello che ha fatto per tanti anni con persone che avevano gravi colpe, tipo portare male, non essere di sinistra, insomma semplicemente lo esclude dai suoi programmi, il che vuol dire tagliargli completamente le gambe, anche perché allora esisteva solo la Rai, lo si vede sempre meno in giro. Lui mette da parte la sua carriera di cantante perché continua solo a scrivere grandi canzoni per altri interpreti. A questo si aggiunge un fatto privato tragico che lo getta nella disperazione, perché nel 75 la sua adorata madre muore in circostanze controverse, uccisa da un colpo di fucile sparato accidentalmente da un conoscente. Il fatto succede mentre Bindi è via per lavoro, questo come dire aggrava i suoi sensi di colpo, un avvenimento dal quale lui farà veramente fatica a riprendersi. Ascoltiamo Gianmarco Cesario, che è autore dello spettacolo Gli amici se ne vanno, dedicato proprio quest'anno a Umberto Bindi. Umberto Bindi, a prescindere di essere stato un grandissimo autore, ha anche avuto una vita densa di avvenimenti, non tutti piacevoli, anzi tutt'altro, dove si sono alternati appunto grandi tragedie, la madre morì per un omicidio o comunque in maniera accidentale, e allo stesso tempo grandi trionfi internazionali, perché è stato sicuramente più apprezzato fuori dai confini italiani, perché abbiamo avuto delle traduzioni di tante sue opere, di tante sue canzoni, sono state tradotte in tante lingue e hanno avuto tantissimo successo, è stato apprezzatissimo in tutto il mondo, però in Italia c'è stato qualcosa che si è interrotto proprio all'inizio della sua carriera, che poteva diventare straordinaria. La sua omosessualità dichiarata, poi lui non si curava minimamente di apparire in televisione con questi anelli così vistosi, per gli anni 60 era qualcosa di scandaloso. E così Bindi è sempre più un personaggio scomodo e la musica finisce e gli amici se ne vanno, per citare la sua canzone. Insomma, si sa, quando le persone cominciano a cadere in disgrazia, attorno a loro si fa il vuoto. Questo è quello che accade anche a lui. Bisogna dire che l'unico inizialmente che gli dà ancora uno spazio, prima Maurizio Costanzo, che nel 88 lo invita al suo show e lui dichiara pubblicamente la sua omosessualità in lacrime, racconta di come sia stata determinante per la sua emarginazione. E poi c'è un'altra persona che ha avuto grande sensibilità nei confronti di Bindi. Nell'89 lo invita a un suo programma televisivo, Una rotonda sul mare, in onda su Canale 5, cercando di reintrodurlo, così senza troppi proclami, all'interno del mondo della musica. Questo personaggio è Red Ronnie e noi Red Ronnie lo abbiamo in linea. Buongiorno, ciao Red. Ciao Ruggia. Come va? Bene, bene. Tu hai detto giustamente questa cosa, però attenzione, non solo io lo invitai alla rotonda sul mare, ma lui si lamentò perché voleva andare a Sanremo, aveva presentato una canzone bellissima peraltro, ci è voluto tempo per imparare a vivere da solo e non gli era preso in considerazione. Cioè, lui serviva alla televisione quando raccontava del fatto di essere omosessuale, certo, eccetera, però non permetteva di dire. E allora io andai a casa sua e ho avuto la fortuna di registrare un'intervista molto lunga dove ho documentato tutta l'amarezza di questo artista, un'intervista dove raccontava l'emarginazione, raccontava il fatto, diceva, perché mi faceva ascoltare questa canzone, è bellissima al piano. Mi ricordo che me l'avevi raccontata questa cosa in privato. E lui mi guardava e poi mi diceva, ma perché, ma è brutta questa cosa? Dico, guarda che bellissima, ma allora perché non mi fanno cantare, perché non mi danno spazio, cosa devo ancora pagare? Questo era il concetto di quella lunga intervista. Eh sì, e dopo c'era il rovescio della medaglia, noi abbiamo raccontato, no, degli anni 60 in cui bastava un anello al dito, esatto, per gettare nel panico i funzionari Rai. Poi dopo arriva il momento in cui alcuni lo trattano un po' come fenomeno da baraccone, cioè lo espongono solo a raccontare appunto questa storia senza dargli credito come musicista, mentre tu lo hai fatto cantare, lo hai fatto suonare. Senti, che tipo era Bindi? Era una persona dolcissima, molto dolce, timida, dolce. Sembrava, sai quando amici mi raccontano che raccolgono un cane a randagio, sì, oppure un cane che è appartenuto a padroni che lo hanno abbastonato e poi abbandonato, e ha quasi timore anche di quando gli fai una carezza. Lui era un artista incredibile, aveva dei brani strepitosi, perché Il mio mondo è una canzone che è andata in tutto il mondo, hai capito, veramente, You Are My World, l'hanno interpretato tutti. Mi dava questa sensazione di un randagio bastonato. Senti, la televisione, diciamo il mondo dei media, ha sempre escluso qualcuno a seconda dei periodi storici. Bindi perché era gay, poi c'è il periodo in cui vieni escluso perché dicono che porti sfortuna, poi il periodo in cui vieni escluso perché non ti dichiari di sinistra ogni 20 secondi, insomma, poi magari vieni escluso perché fai dei pezzi non radiofonici. Insomma, in qualche modo durante questi anni c'è sempre qualcuno che decide chi sta dentro e chi sta fuori. E secondo te succederà sempre questo? Cioè, è nella natura umana o è nella natura della televisione di potere italiana? No, succederà sempre, nel senso che ci sarà sempre una scusa per dire Vasco Rossi cantava, mi si escludeva, sì, ci sarà sempre una scusa per escludere qualcuno, perché la persona di turno in quel momento gli sta antipatico, perché non è in linea con, io mi ricordo che persino Nilla Pitti fu esclusa perché si divorziò, Mina perché partorì un bambino, certo, non essendo sposata, quindi cioè, ci sono sempre quelle cose che ti volti indietro e dici, ma è mai possibile? I Nomadi mi dissero che esclusero la canzone Lunga e dritta correva la strada, perché ci voleva lanciare l'autostrada, tutti dovevano prendere l'autostrada e tu non potevi dire che in autostrada certo, gente ci moriva, hai capito? Poi chiaramente ci sono le esclusioni, non fai parte di quel gruppo lì, di quella parrocchia lì. Esatto, sono di un'altra parrocchia, sono di una comunità diversa, sono di un'altra parrocchia, e non sei allineato sull'onda, per citare una tua canzone che io amo, La Follia, quindi non sei allineato in quell'onda lì, e quindi ricordati sempre che si ha paura di ciò che è diverso, si ha paura di ciò che è nuovo, si ha paura di ciò che ridicolizza quello che stai facendo tu, perché ricordi che è la mediocrità che vince, perché è la mediocrità che esclude, perché il genio non esclude mai, il genio è aperto, è la mediocrità. Grazie Red, queste due parole andrebbero scolpite da qualche parte, segnate e ricopiate, e ti do atto di essere uno dei pochi, insomma, che si batte contro questo sistema appena citato. Grazie Red, a prestissimo. Ottimo, sei stato prezioso come sempre. Il tuo Falco Gabbiano me lo sto ascoltando in podcast, perché quelle persone sono fantastico. Ciao, ciao Rudy. Ciao. Letti che sanno tutto ormai. Siamo nel 1996, dopo le esclusioni di cui parlava Red poco fa, e lui trova la forza, Umberto Bindi, di reagire ancora una volta, incontra Renato Zero, uno che dovrebbe capirlo, gli fa ascoltare delle sue melodie tenute nel cassetto per decenni, lui viene rapito da queste composizioni, gli produce un album che si chiama Di Coraggio Non Si Muore, e all'interno di questo album è contenuta una canzone con la quale Bindi partecipa al Festival di Sanremo insieme ai New Trolls, perché magari da solo era troppo, e allora si trova questo compromesso. La canzone si intitola Letti. È lì che si scatena l'anima, è pallida, anonima. E in quell'occasione Bindi è molto emozionato, perché in fondo è da quello stesso palco che 35 anni prima sono iniziati tutti i suoi problemi legati alle sue preferenze sessuali, e con questa canzone invita chi giudica a farsi un esame di coscienza, perché la sua vita è stata molto difficile, peraltro continua a esserlo, soprattutto sotto il profilo economico. Potrebbe sembrare un paradosso per un autore di successi mondiali, però non è così. Ascoltiamo ancora Gianmarco Cesario. I contratti con le multinazionali sono stati dei contratti capestro, lui inconsapevolmente ha firmato questi contratti che praticamente non gli riconoscono i diritti di questa grande distribuzione mondiale della sua musica. Lui era un genovese sui generis, allora se vogliamo credere ai luoghi comuni, lui è forse proprio quello che li contraddice nella maniera più assoluta, perché lui non era assolutamente un avaro, non era un interessato al soldo, era un artista puro. Eh sì, un artista puro che firma contratti capestro, si fa derubare dai collaboratori. Gli ultimi anni di vita vedono un Bindi malato. Io l'ho incontrato l'unica volta nella mia vita, il 30 novembre 2001, mi sono segnato questa data, un concerto che abbiamo fatto assieme per beneficenza al Teatro Carlo Felice di Genova, e ho visto una persona di grande dolcezza, però una persona vinta, affaticata dalla vita. Stiamo parlando di un uomo a quel punto sofferente di cuore, 4 bypass, vive in un paesino sulla Cassia, a metà strada tra Roma e Viterbo, col suo compagno Massimo Arosi. Insomma, le sue condizioni arrivano ad essere veramente disperate, e qui l'amico Gino Paoli non lo abbandona, perché non lo ha mai abbandonato, e nell'aprile del 2002 lancia sul Messaggero un appello perché gli siano concessi i benefici della legge Bacchelli a sostegno degli artisti. Il vitalizio arriva, ma troppo tardi, perché il 23 maggio 2002 Umberto Bindi muore. Noi abbiamo in linea proprio il suo amico di sempre, Gino Paoli. È un onore, buongiorno maestro. Buongiorno. Come stai, tutto bene? Tutto bene, ti ringrazio. Noi abbiamo praticamente finito di raccontare la storia di un grande autore, di un grande musicista, Umberto Bindi, e anche, diciamo, di un destino che avrebbe dovuto e potuto essere molto più benevolo con lui. Volevamo intanto un tuo ricordo di Bindi caratteriale, insomma, cosa ti senti di dire di Bindi? Beh, Umberto era una delle persone più buone che io ho conosciuto. Era una persona estremamente buona ed è una persona a cui ho voluto molto bene. Poi ero legato a lui da un affetto molto profondo, per cui tutto quello che potevo fare per lui l'ho fatto, fino al momento in cui lui non si è fatto più sentire per un po'. Io, dato che ogni volta che era nei guai o c'aveva dei problemi mi chiamava, io non capivo questa cosa. Finalmente so da altre persone che lui vive, appunto, mi sembra che hai detto qualcosa di simile. Sì, viveva fuori, si era venduto il pianoforte e stava male, era malato, molto malato. A questo punto io, d'accordo con alcune persone, con Maurizio Costanzo, e devo dire che quella volta chiesi aiuto anche a Berlusconi, dicendo: guardate che questo bisogna che glielo date subito, e in effetti si sono movimentati tutti per farli avere subito. La cosa che avrei voluto io, purtroppo era troppo tardi, la cosa che avrei voluto io, eravamo d'accordo con Maurizio Costanzo, di rimetterlo sul palco e farlo ricantare. Lui aveva due cose che rimpiangeva: quello di andare sul palco e l'altro di avere un figlio. Sono le due cose che lui soffriva moltissimo, cioè questa è un po' la storia di Umberto. Umberto, ti ripeto, per quelli che non lo conosceva, era una delle persone più buone che ho conosciuto. Era indifeso, cioè era una persona che non riuscivi a proteggere, perché era talmente indifeso che chiunque gli poteva fare del male. Senti, l'ultima domanda, Gino, a me sembra che queste cose succedano solo in Italia, cioè io non mi immagino la Francia che si dimentica di un grande autore francese. Se tu vai anche da un pancabestia francese con i capelli con la cresta e gli parli male di Aznavour, questo si arrabbia perché lo ritiene parte del suo patrimonio. A me sembra che questa sia una storia che sarebbe potuta accadere in questi termini solo in Italia, mi sbaglio? Hai ragione, perché c'è un processo assolutamente idiota, perché è un processo idiota. In Francia Maurice Chevalier è morto sul palco. A Aznavour ha 10 anni più di me, quindi ha 90 anni. E fa concerti. Ha 92, sì. E sta facendo una tournée per il mondo. Sì, sì. Eccetera. Insomma, quando sei una vedette in Francia, sei una vedette per tutta la vita. Nessuno te lo toglie. Certo. In Italia fanno la cosa al contrario, cioè ti buttano sul più possibile e il più velocemente possibile, e appena possono ti massacrano e si dimenticano di te. Ma non è un caso quello di Umberto, è un caso quello di Bruno, è un caso, certo, quello di Sergio Endrigo, che addirittura veramente ha scritto: l'unico guaio che ho fatto sbagliato è non essermi ammazzato, così magari avevo l'ha detto in un libro, non è, sì, che sì. È successo a diversi essere dimenticati, certo, totalmente dopo essere stati, voglio dire, il caso di Endrigo, che era addirittura uno conosciuto in tutto il mondo, che ha vinto non so quanti festival. Io credo che possa succedere solo in Italia, credo. Qui io sono stato appena poco tempo fa, fino a poco tempo fa, il presidente della SIAE, poi a un certo punto mi hanno massacrato probabilmente per togliermi di lì. Ci abbiamo fatto una specie, sì, sì, di fondo di solidarietà per quelli che hanno bisogno. Non ti dico che è venuto a chiedere avendo bisogno, avendo una rendita annuale di miseria, sì. Non te lo dico perché non ci crederesti, capito? Sì, sì, sì. Cioè, è una cosa che è un disonore per un posto dove tutto sommato anche la canzone è cultura, insomma, in qualche maniera io credo che sia cultura, ma certo, purtroppo in Italia c'è questa cosa. Hai fatto un'osservazione assolutamente estremamente giusta. Poi io le ragioni per le quali non lo so. Una volta qualcuno mi ha detto: l'Italia è un popolo di invidiosi, di gente che non può vedere uno che riesce. C'è sempre una ragione per cui il merito non è considerato. Se uno riesce, vuol dire che ha combinato delle cose per riuscire, che non ha niente a che fare col merito. E questo assolve la mediocrità. È normale. Grazie Gino, grazie comunque, mille. Comunque tieni presente che io adesso, quando faccio uno spettacolo con Danilo Rea al pianoforte, e io, ed è una cosa straordinaria, bellissima per, sì, me. Lo so. Faccio il nostro concerto, perché faccio tre canzoni di Amici, a un certo punto faccio una canzone di Luigi, faccio una canzone di Lauzi, faccio il nostro concerto. Ti assicuro che quando faccio il nostro concerto ho un applauso che non finisce più. Questo per dirti che può darsi che ti dimentichi di una persona, ma la sua opera, se è valida, rimane. Bella, chiudo così. Grazie Gino, grazie mille, veramente. Prego, Enrico. Ci sono storie che vanno riportate in superficie, quella di Umberto Bindi è proprio una storia che meritava di essere raccontata, perché qui i colpi d'ala sono state opere d'arte che rimangono e rimarranno sempre al di là del male che è stato fatto a questa persona. Ognuno di noi può rischiare di cadere, però alla fine, se c'è qualcosa dentro di lui, il suo colpo d'ala potrà addirittura sopravvivergli. Se volete mandare i vostri commenti, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it. Poi ricordate il nostro podcast, queste sono puntate che voi potrete risentire quando volete, e poi venite a cercarmi sui miei social o sui nostri social, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Sopra un cortile senza alberi, il mio concerto se ne andava via da casa mia, volava via. Il falco e il gabbiano. Un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.